fede insufficiente. Il messaggio del Vangelo di Dio potrebbe essere riassunto in ciò che Paolo disse al carceriere di Filippi. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Non vi è messaggio più bello al mondo e niente che costi meno per ottenere così tanto. Contemporaneamente questo messaggio nasconde un'insidia. Pensare che qualsiasi fede sia sufficiente per tutto, sia per ottenere la vita eterna, sia per diventare e vivere da cristiani. Che una fede qualsiasi non sia sufficiente per essere salvati, lo sostiene. E lo dimostra Giacomo quando afferma che la fede senza le opere è morta. Che la fede non sia sufficiente per diventare e vivere da cristiani lo prenderemo in esame, ma poiché vi è confusione in merito al termine cristiano è opportuno fare una puntualizzazione. Nella parola di Dio leggiamo che chi crede e accetta Gesù Cristo quale Signore e Salvatore della propria vita diventa figlio di Dio. E i figli di Dio a loro volta vengono definiti santi o discepoli. Non troviamo una sola affermazione nella Scrittura che chi crede in Gesù diventa Nuovo Testamento primo un cristiano. Eppure questo nome era ben conosciuto al tempo dell'Apostolo Paolo. La ragione è che l'espressione figlio di Dio è riferita all'essere, mentre il sostantivo cristiano è riferito al divenire, la stessa differenza che passa tra il termine santo e discepolo. I santi sono tutti coloro che sono stati giustificati per la fede in Cristo. I discepoli sono tutti coloro che seguono Gesù Cristo. Il primo termine si riferisce all'essere, mentre il secondo al cammino. Il termine cristiano quindi va riferito a colui che ha una fede specifica che lo distingue dal semplice credente in Cristo. Chi non crede che Gesù sia Dio, il Signore, Yahweh, cioè la divinità dell'antico patto, e alla sua unicità, che non crede in Lui, a Lui, e non vive per Lui anche se è nato di nuovo e di conseguenza è figlio di Dio, rimane solo un credente e non può essere definito un cristiano. Tutti i cristiani sono credenti, ma non tutti i credenti sono cristiani. Se noi usassimo questa distinzione nel rapportarci con chi si professa credente, avremmo meno confusione nel definire un cristiano e potremmo parlare a ragion veduta quando si tratta di esaminare la fede altrui. Così non sono cristiani solo coloro che hanno una vita dissoluta, che nutrono del rancore o dell'odio, che calunniano il prossimo, ma anche coloro che semplicemente hanno posto fede in Cristo e poi non lo riconoscono come il loro padrone nella quotidianità. Prendiamo in esame 7 tipi di fede insufficiente per piacere a Dio. 1. Fede in Antico Testamento, URALE. L'Evangelo di Giovanni si distingue da tutti gli altri Evangeli perché mentre Matteo, Marco e Luca si sono preoccupati di scrivere ciò che Gesù ha fatto, Giovanni invece si è preoccupato. Nel suo Evangelo Giovanni mette in enfasi come molte persone ebbero fede in Cristo. Ma anche da un esame superficiale si nota come la loro fede non sia sempre una fede salvifica, ma una fede che pur essendo tale ne spoglia la potenza. Sarebbe come una bacinella piena di acqua di mare. L'acqua contenuta nella bacinella è uguale a quella che è nel mare, ma in essa le imbarcazioni non possono navigare. Così è della fede in Cristo di molte persone. Lo invocano, ma la loro preghiera proviene da una fede incapace di operare nella loro vita. Prendo come esempio una preghiera che ho letto in un periodico ateo, che potrebbe essere fatta anche da un figlio di Dio. O Gesù, vorrei che anche tu, con bontà divina, aiutassi a rivalutare le pensioni come erano prima. Intercedi presso sto governo di menefreghisti, affinché il sorriso torni sui nostri visi tristi. Tu che a tutti noi la vita tua hai donato, estendi la tua mano sull'onesto pensionato. Non si può certamente negare che chi ha scritto questa poesia non abbia una certa fede in Gesù, ma una fede naturale che certamente non può essere gradita a Dio. 2. Fede nel trascende Nuovo Testamento e anche al tempo di Gesù molti avevano avuto fede in Lui, ma che tipo di fede avevano? Non certamente quella voluta da Dio. Infatti l'Evangelista Giovanni annota nel suo Evangelo: ora, mentre egli si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni che faceva, ma Gesù non si fidava di loro, perché li conosceva tutti. GV 2.2324. Dunque Gesù non si fidava di coloro che avevano posto fede in Lui. Se vogliamo essere obiettivi, Non è un buon atteggiamento caritatevole dubitare della fede altrui, ma dato che Gesù conosceva il cuore delle persone, se dubitava aveva delle buone ragioni. L'atteggiamento di Gesù ci porta ad un'altra riflessione. È vero che il credente non conosce il cuore di tutti gli uomini, e per questo sembra che non dovrebbe mai dubitare della fede degli altri. Però essere accorti e a volte dubitare della fede di chi si professa credente o addirittura cristiano può essere lecito. Molte persone devono ancora convincersi che essere spesso degli incauti o degli sprovveduti non è un atto di carità cristiana, ma mancanza di quell'accortezza e quel discernimento che devono costituire il bagaglio di conoscenza di chi si professa cristiano. Dio non ci chiede di credere a ogni spirito, ma piuttosto di esaminare ogni spirito e ogni cosa, per ritenere poi il bene. Non dobbiamo fare di una mancanza una virtù, proprio perché non ogni fede è quella giusta. Proprio perché esiste una fede insufficiente, troviamo sempre nell'Evangelo di Giovanni persone che hanno posto fede in Cristo, ma una fede inefficace alla salvezza. Le prime sono quelle che hanno posto fede in Gesù perché fece dei miracoli e delle quali Gesù non si fidava, perché la fede di queste persone era più sui miracoli che sulla persona di Gesù. Queste persone avevano una fede insufficiente, cioè fede nella potenza di Gesù, fede nel trascendente, come avevano fede i discepoli che scacciavano i demoni e guarivano i malati. Ma questo tipo di fede non basta per entrare nel regno di Dio. Quante persone oggi hanno fede nei miracoli più che sulla persona di Gesù? Lo dimostrano tutti coloro che credono nei santi o nella Madonna. Per loro l'importante è avere fede nei miracoli che questo santo o un altro è capace di fare. Che poi Gesù sia il Salvatore o l'unica persona da doversi adorare non ha importanza. Ma avere fede nei miracoli e nelle persone che siano in grado di compiere guarigioni non porta automaticamente le persone a consacrare la loro vita a Cristo, né da dimostrazione Simon Mago, citato nel libro degli Atti, il quale, benché avesse creduto, o Cotta. 8.13, non aveva un cuore retto davanti a Dio e doveva ravvedersi. Simili persone hanno fede, è vero, ma anche i demoni hanno fede, eppure sono dannati per l'eternità. 3. Fede che non rende discepoli. Che la fede sia insufficiente per essere di conseguenza discepoli di Cristo, lo dice Gesù stesso, a certi giudei che avevano creduto in Lui. Così troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in Lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. GV 8.3032. Dunque, se la scrittura afferma che molti giudei avevano creduto in Lui, questo non può essere messo in dubbio. Eppure, Gesù li accusò di volerlo uccidere. 8.37. Sembra una contraddizione, ma occorre comprendere che avere fede in Cristo non necessariamente significa credere a Cristo e seguirlo, cioè praticare tutto quello che Lui ha insegnato. In effetti non è possibile negare che il cattolicesimo e il protestantesimo storico abbiano fede in Cristo Gesù perché comunque lo predicano. Ma è bene constatare che spesso queste due correnti religiose non credono a quello che Gesù ha detto. Alcuni teologi protestanti, per esempio, non credono alla condanna eterna, mentre il cattolicesimo non crede che vi sia un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Credono nella persona di Gesù, ma non al suo messaggio, e con le loro opere rinnegano quello che dicono. Tito 1.16. 4. Fede paurosa. Una fede insufficiente in Cristo la troviamo anche nei capi religiosi contemporanei di Gesù. L'Evangelista Giovanni così commenta nel suo Evangelo: sebbene Gesù avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora: egli ha ciecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano, e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. GV 12.3743. Come spesso succede per chi ascolta l'Evangelo, molti non lo accolgono nel loro cuore. E questo, secondo la Scrittura, è stato previsto da Dio e profetizzato nella sua parola. Però molti capi religiosi che ascoltavano Gesù credettero in lui, ma la loro fede era insufficiente o difettosa perché non avevano il coraggio di dirlo agli altri per paura di ricevere del disprezzo da parte dei loro connazionali e per non essere espulsi dal loro servizio religioso. Per quanto se ne dica, ognuno di noi ha un tremendo bisogno di essere circondato da una cerchia di persone con le quali condividere la vita. Così se è l'uomo che ha bisogno degli amici per giocare a carte, o lo sportivo ha bisogno di chi ama il suo passatempo di persone come lui, il religioso ha bisogno di altri religiosi che ne condividano fede e di un luogo comune per trovarsi. Per dei farisei, essere espulsi dalla sinagoga significava togliere la terra sotto i piedi. Forse qualcuno potrebbe giudicarli severamente di essere dei codardi, ma quante persone ho visto nella mia vita fare una professione di fede in Cristo e poi non abbandonare la loro religione e i loro amici religiosi per non dover incorrere nel disprezzo altrui. Una simile fede è però insufficiente per entrare nel regno di Dio, perché il cristianesimo è riassunto in questa ammirevole affermazione: se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Pro 10.9. Dunque, per ottenere la salvezza della propria anima occorre non solo credere in Cristo, ma anche confessarlo con la bocca. Chi non ha il coraggio di professare Cristo quale unico padrone, unico intermediario tra Dio e gli uomini, unica persona da pregare e adorare, secondo la Sacra Scrittura, non verrà riconosciuto degno del regno dei cieli. Perciò i capi religiosi al tempo di Gesù avevano la fede giusta, ma erano dei credenti perduti, perché vivevano da codardi. 5. Fede circoscritta. C. È un altro tipo di fede insufficiente che ha caratterizzato soprattutto i discepoli di Gesù e che troviamo anche oggi in molti di quelli che si professano cristiani. Quando Gesù miracolosamente trasformò dell'acqua in vino, il commento di Giovanni è stato il seguente: Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 2.11. Non vi sono dubbi che i discepoli credettero in Gesù, ma che tipo di fede hanno avuto? Il Vangelo di Marco può rispondere a questo interrogativo e precisamente nella descrizione degli avvenimenti avvenuti dopo la resurrezione di Cristo. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni, ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose, apparve in altra forma a 2 di loro, che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Mc 16.9.14. Dunque, i discepoli di Gesù vengono presentati nel Vangelo di Marco come i più incorreggibili increduli riguardo alla resurrezione di Cristo, perché non credettero alla testimonianza di più persone in più occasioni, al punto che pensarono che fossero fuori senno, Lc 24.11, e quando videro Gesù pensarono che fosse un fantasma, Lc 24.37, al punto che la loro incredulità era tale da essere rimproverati direttamente da Gesù. Eppure abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni che i discepoli credettero in Gesù. Quali delle due versioni è vera? Sono vere tutte e due perché Giovanni ha messo in evidenza la fede che i discepoli hanno avuta in un singolo episodio, una fede circoscritta, ma non avevano la fede compiuta per credere anche alla resurrezione. Così è di molte persone, sono disposte a credere parzialmente in Gesù, ossia che lui compia miracoli, che sia un profeta, che sia Dio, ma non credono che la sua opera sia sufficiente per perdonare i loro peccati una volta per sempre. E non solo gli increduli hanno una fede insufficiente, perché altre persone che hanno posto fede in Cristo, pur credendo che sia il loro Salvatore, non credono che sia anche colui che li conduce giorno per giorno, e che ogni situazione della vita dipende da Dio stesso. Riflessione che potrebbe essere offensiva, ma la dimostrazione di una totale fiducia in Cristo si ottiene nel vedere allontanare una persistente angoscia, il dubbio, la tensione e il nervosismo. Una fede completa agisce in modo completo in chi la possiede. Fede da perdizione. Una fede insufficiente la troviamo anche in una ennesima conversazione fra Gesù e i giudei in relazione alla sua divinità. Il Vangelo di Giovanni così lo racconta. Gesù dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado e voi mi cercherete, e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io voi non potete venire». Dicevano perciò i giudei: «Vuole forse uccidersi, perché dice: dove vado io voi non potete venire». Ed egli disse loro: «Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati. Perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati». Allora essi gli dissero: «Chi sei tu?». E Gesù disse loro: «Proprio quello che vi dico». GV 8.2125. I giudei interlocutori di Gesù credevano in lui, ma avevano molte riserve sulla sua divinità. In effetti Gesù li avvertì che se loro avevano una fede limitata solo al suo lato umano, sarebbero morti nei loro peccati. A questo punto i giudei, capita la gravità dell'affermazione, gli chiedono dunque chi era, e Gesù dichiara di essere il creatore di ogni cosa. La risposta di Gesù si comprende meglio considerando il testo originale in greco. Infatti, come risulta in una traduzione interlineare dal greco, alla domanda dei giudei in merito alla sua identità, Gesù risponde: «Da principio ciò che dico a voi», espressione che nella Bibbia, tradotta dagli originali sotto la direzione di Bonaventura Mariani, 1969, è resa in questo modo. Gesù rispose loro: «Il principio, ciò che appunto vi dico». Con questa risposta Gesù stava dicendo di essere lei, io sono, cioè il principio, niente meno che JHWJ, cioè la divinità che si era manifestata ai padri nell'antico patto ed ora presente fra di loro. Forse è facile per noi oggi credere che Gesù sia anche Yahweh, ma per degli ebrei che tuttora non possono concepire che la loro divinità possa avere un corpo, questa era la bestemmia più grande che Gesù potesse proferire. Per questo in seguito lo fecero crocifiggere. Questo episodio mette in guardia tutti coloro che sostengono di credere in Gesù perché la loro fede è insufficiente, se non credono che Gesù Cristo sia colui che si è rivelato ai padri quali Abramo, a Giacobbe e a Mosè. Sono troppi coloro che credono che Gesù sia un Dio inferiore a suo padre, come i testimoni della torre di guardia, o troppi coloro che credono che Gesù sia divino, ma non sia la divinità che si è fatta vedere nell'antico patto, come molti altri religiosi pseudo-cristiani. Perciò occorre ripristinare l'ebraicità del messaggio dell'Evangelo, che consiste nell'affermare che Gesù è il Dio Yahweh, altrimenti si muore nei propri peccati. 7. Fede D.I.M.E. Nuovo Testamento Ichevole. Quanto è difficile possedere una fede compiuta. La parola di Dio, che narra principalmente la storia del popolo di Israele e della Chiesa di Gesù Cristo nei primi 30 anni dal suo nascere, descrive uomini e donne che hanno sì posto fede in Cristo, ma con una fede che non era in grado di resistere nel tempo. Il Salmo 106 narra l'amore mostrato dall'Eterno Dio nei confronti del popolo di Israele. quando questi era incamminato verso la terra promessa, ma altresì ricorda la fede insufficiente di coloro che erano l'oggetto dell'amore di Dio, un atteggiamento incredulo comune anche oggi a molti che si professano cristiani. Così il salmista in una sola frase riassume l'atteggiamento del popolo. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano, SL 106:12. Il popolo che Dio si era scelto aveva posto più volte fede nell'opera che l'Eterno compiva, lo dimostra il fatto che in seguito cantarono con gioia e riconoscenza le gesta che egli compiva, come del resto tanti credenti di oggi, che cantano con gioia per le liberazioni ricevute nel corso della loro vita. Ma questa è una fede iniziale ma non sufficiente. Una fede compiuta non solo si rallegra del presente, ma attende fiduciosa anche le altre promesse di cui sul momento non si vede l'adempimento, ricordando le opere compiute da Dio nel passato. Se oggi mi trovo in difficoltà o in una situazione dalla quale vorrei essere liberato, devo ricordare quante volte per la grazia di Dio certi ostacoli sono stati improvvisamente superati, e questo deve creare in me quell'atteggiamento di attesa che Dio operi. Certo, non da tutte le situazioni si può essere completamente liberati perché nessuno di noi conosce i piani di Dio, ma il credente con una fede matura tiene gli occhi fissi sui piani di Dio che avranno il loro compimento al momento opportuno. E è sufficiente ricordare quando gli israeliti furono oppressi in Egitto per 400 anni e per varie generazioni nessuno di loro poté vedere né la propria liberazione né quella del popolo. Ma al momento opportuno l'Eterno adempì le sue promesse. Se senza fede è impossibile piacere a Dio, Ebi 11.6, allora tutti coloro che si lamentavano della situazione o, guardando il presente, erano dubbiosi delle promesse di Dio fatte ad Abramo, hanno vissuto una vita non gradita a Cristo, mentre coloro che erano fiduciosi della liberazione sono morti, è vero, come gli altri senza vedere con i propri occhi la salvezza, ma hanno vissuto una vita della quale Dio si è compiaciuto. E questo, in fondo, è lo scopo della fede sufficiente. Aprile 2007. Ellero.